In un tempo antico, quando ancora le parole delle persone erano come il suono del vento che passa tra i boschi, in un luogo dove erano tutti uguali, gli esseri umani erano scomparsi. Si dice che in questo luogo vivessero delle persone che avevano ideali particolari e che tutti avevano lo stesso numero di alberi di melo, di ulivo, di asini per lavorare e di pietre per costruire le case. Ma durante la notte erano scomparsi. Qualcuno dice che si erano spaventati per la terra che si muoveva, una frana gigantesca che incombeva su tutto il paese. Ma secondo noi erano andati via perché in quel mondo le loro idee non erano proprio capite. Sta di fatto che quella notte si sono perse le tracce di quel paese e dei loro abitanti. Nessuno sa esattamente dove siano finiti. Quello che sappiamo però è che le persone che li vivevano adoravano inventare e raccontare storie. Questo posto si chiamava Campo Maggiore. Qualcuno dice che il nome derivasse dall'antico nome romano Campus Maiorem. Per qualcun altro invece lì c'era un campo di grano grandissimo, il più grande di tutta la valle. Di lì, Campo Maggiore. Per... No, ma non è vero, si chiama Campo Maggiore perché un paese molto piccolo ma anche molto potente. Questo non lo sapevo. No, non si chiamava così. Si chiamava Campo Maggiore perché era un grande campo da calcio. No, non si chiamava così perché era un paese esploso dalle bombe. No, non è vero, si chiamava così perché c'erano tantissimi alberi da frutto. Si chiamava Campo Maggiore perché c'erano tanti animali che aiutavano le persone. Ma scusate, voi chi siete? Siamo noi, siamo le bambine e i bambini di Campo Maggiore. Non siamo scomparsi. Ci siamo spostati. Dove vi siete spostati? Siamo andati all'altra parte di Campo Maggiore. Fai la curva. Scendi, scendi, scendi, sempre dritto. Fino a quando abbiamo trovato la strada con le pietre. Quando abbiamo superato la strada con le pietre, c'è la strada liscia. I nostri nonni si sono nascosti per paura. Paura? Paura di cosa? Per la lunga storia. A Campo Maggiore perché c'erano tanti animali. L'animale preferito era il ciuccio. Il ucciuccio! Aiutava nei lavori e dava tanta compagnia e tutti li volevano bene. Ciucci e abitanti stavano sempre insieme, passavano così tanto tempo insieme che avevano persino imparato a capirsi e a comunicare. Furono loro i ciucci a salvare gli abitanti della città vecchia, tagliando o muovendo le orecchie, chissà. Gli odori di terra, terra e pietra. Stenzen. Ucid, Grus, Plis, Fatiatore. Il lachir di chi? La palamente che aveva non rete e donna Alice mi tua compia a tirmo cose. Ascoltate, come possono incontrarsi due animali molto diversi? L'asino, grosso, peloso, il lavoratore. E la lucciola, una piccola farfalla che vola di notte, dando luce in mezzo ai campi e attorno alle case. Ucid. Stavo sempre a chiesi giù dalla storia. Sempre chiuso nella stalla. E ci macchio un momento per vedere. Come ero fatto, Ucilla tenente. Aspettavo il momento giusto per scoprire come era fatto il cielo di notte. Invece, la Kirnicchi. Ieri la regina della notte. Ero la regina della notte. E scevo colonna, leggera. Comuta da ronna, pupiscio d'un questione. Volavo leggera come un seme alato per la felicità della gente. Un giorno uscì dalla stalla e dopo che gli era rete tutta la cernete, dopo aver arato tutto il giorno, prima di trasi alla mangiatoia, un padrone mi portò pizza da poveré. Fui portato dal padrone vicino al pozzo per bere. Crescete, mi misi a ragliare, a ragliare. occhi vedere come è fatto uccidere le nette, per vedere com'è fatto il cielo di notte, ma spicchi gli un dopo l'occhio, mi specchio nell'abbeveratoio e vedo minza lucchia, narice, callombo, istita, allombo, istita. Da viradì, tonde per me chi yes, quando ponno sole, da quel giorno tante lucciole escono al tramonto del sole. E velorna sopra uomo, appuccione la terra. E volando sui campi, accendono la terra di baglioni. Senza sapere, du friscole, ina ronna, l'otto piccione camon che sapete. Senza saperlo, due bestie, una grande e l'altra piccola, si soacchiede e si soaiete, senza ferimore. Si sono incontrate e si sono aiutate, senza far rumore. I ciu cristiani rispettevano alle mie, e se gli uomini rispettassero queste creature, umin vera parecchio bene, il mondo sarebbe più bello! Abitanti stavano sempre insieme da dedicargli poesie e canzoni. Persino il fratello del conte, Rendina, le aveva dedicato ode, che faceva più o meno così. Ciuccio! Oh Ciuccio! Oh Ciuccio! Oh degli sciocchi scherno! Orco di sciocchi scherno! Col tuo pelo argentato non ho perso né acqua né sapone. E che gran lavoratore! Tu che nelle fatiche mi hai sempre sostenuto, senza ira, senza rabbia l'animo tuo. Come filosofo dei campi! Pensatore dei grandi paesaggi! E quando il radio tuo si fa più forte? Allora, signori, e qui c'è qualcosa che non va, perché l'asino detto fra noi è un gran premonitore. E che vuol dire? Che legge i segni, capisce i suoni e sa quello che verrà. Oh, somaro, somaro, che tu possa avere lunga vita e che santa, santa sia la divinità tua. Santi gli occhi tuoi e le tue lunghe orecchie. Santa la coda. E che tu possa vivere ancora. Nel tempo ancora, ancora affacciare contro il tempo. E quando non ci sarai più? Nel tempo che passa possa venirci in sogno e raccontarci storie. E resistere, resistere. Ciò che è bimba. vicino per l'ordine mio. Mio fratello che cerca lavoro potrebbe aprire un punto ristoro e dargli per nome Pietra del Turo. A mia sorella qui piace studiare, un laboratorio deve andare in mercato. Ragazzi e ragazzi, e gli animali, noi abitanti siamo tutti uguali. La terra la vivere mangia dei draghi, ora so la come siamo andati. Il formaggio della mucca di zia Lina è una delizia sopraffina. Ma più di tutti dobbiamo ricordare. Ma più di tutti dobbiamo ricordare. Il mulo che troppo non sa riposare. Il mulo che troppo non sa riposare. Perché lui è un gran faticatore. Perché lui è un gran faticatore. Aiuta la sarta, il prete e il pastore. Aiuta la sarta, il prete e il pastore. Cammina portando sulla schiena. Cammina portando sulla schiena. Una montagna di gialla vena. Una montagna di gialla vena. Maria, Maria.